AVS Media Demo. Guardavo il mondo, ma ne avevo uno dentro. Il mondo di ciò che AVS Media Demo. E tutto ciò che sento. Su un'altalena l'anima mia si consuma. Sull'altare del sacrificio l'anima mia. AVS Media Demo. È un fuoco d'artificio. Una corda l'anima mia. Un musicista senza volto suona l'arpa e poi va via. Un treno, AVS Media mia. Demo. Io un misero vagabondo. Ma dentro l'anima mia. Io viaggio in tutto il mondo. Cos'è, cos'è AVS Media Demo. L'anima mia. Cos'è, cos'è. Oh. Ho il mondo dentro. AVS Media Demo. Il mondo dentro. È un burattino picchiato da un passante. È un povero pagliaccio che piange. L'anima mia è questa cicatrice. È quello che per tante rabbie. È un bambino appena nato. Una ruga di espressione. È un barbone ubriaco fuori dalla stazione. L'anima mia è un amore finito male. Sono gli occhi di mio nonno all'ospedale. L'anima mia è una foresta che brucia. E il ruscello che pulisce. L'anima mia è ogni singolo volto che ho incontrato. Ogni persona che mi ha umiliato. L'anima mia è il mio corpo che sbanda ubriaco. AVS Media Demo. Di notte quando cala il sipario, io sono l'unico attore. Sono AVS Media Demo. Scrittore del monologo della vita mia. Dentro c'è il paradiso, c'è l'inferno, c'è l'anima mia che sale sul ring. AVS Media Demo. Che mette il sale sulle ferite. Io dentro non ho una, ma altre 100.000 vite. E lo so che anche tu la notte. AVS Media Demo. Appena cala il sipario. Fai a pugni con i tuoi fantasmi e poi da loro ti lasci cullare per ricominciare AVS Media Demo. A sognare ho il mondo dentro, a sognare ho il mondo dentro, ho il mondo dentro. AVS Media Demo.